Allora, torniamo in diretta con Cronache di Regime, sono le 19.07, prima di iniziare questa chiacchierata con il compagno che è qui presente. Allora, volevamo ricordarvi un po' di contatti, potete scriverci alla mail cronachediregime@autistici.org, sia scrivendo Cronache con la C che con la K, potete seguirci anche su Facebook ed Instagram e potete scriverci in diretta per domande o eventuali richieste musicali via SMS o via Telegram al numero 351 55 79 698. Bene, allora benvenuto a Cronache di Regime. Ciao, grazie di avermi qui. Ok, niente. Allora, come detto, volevamo parlare un po' di questo conflitto russo-ucraino, però necessariamente dovremmo fare una cappella introduttiva riguardo il contesto, appunto, all'interno del quale nasce questo conflitto odierno, perché non Sì, esatto. possiamo dire che nasce l'altro ieri, ma ci sono delle situazioni storiche ben definite. Appunto, è importante contestualizzarla, appunto. Una data importante è il 2014, appena 8 anni fa, quando appunto in Ucraina ci sono stati i famosi eventi di Piazza Maidan che hanno portato al rovesciamento del governo filorusso che vi era ai tempi, alla salita di un nuovo governo. Ed ecco, da allora il paese è attraversato da una guerra civile nell'est del paese, nelle regioni separatiste a maggioranza linguistica russe del Donetsk e del Lugansk. E inoltre il paese ha subito un'occupazione militare di una sua penisola, che è la penisola di Crimea, nel sud del paese. E da allora i rapporti dei due paesi, che già non erano positivi prima, non sono migliorati. E l'ultima escalation che c'è stata, appunto, che ha riempito le prime pagine di tutti i giornali, è stata l'invasione militare russa. Ecco, i russi giustificano questa loro operazione sul fatto che, accusando sostanzialmente l'Occidente di avergli forzato la mano sulla questione. L'Occidente di contro accusa la Russia di stare violando il diritto dell'Ucraina di essere un paese libero ed indipendente, e gli ucraini portano avanti la loro fondamentalmente storica battaglia per un'indipendenza, un riconoscimento che c'è stato in tutto il tempo in cui hanno vissuto o convissuto con i russi. Ecco, la situazione iniziale però ha subito. Ecco, andando ad analizzare, diciamo, i russi si aspettavano di fare quello che avevano fatto sostanzialmente, appunto, come avevo già detto prima, nel 2014. Un'occupazione militare veloce e rapida, nella quale sostanzialmente loro entravano nel paese, accerchiavano le truppe degli ucraini, i quali, non molto disponibili a combattere, si sarebbero arresi gli uni contro gli altri. Si sono scontrati con la dura realtà del fatto che questo non era così. Gli ucraini, appunto, da 8 anni combattevano un conflitto, erano pronti, se lo aspettavano, erano pesantemente armati da numerosi paesi occidentali. Gli Stati Uniti hanno inviato miliardi in armi negli ultimi anni, così come gli inglesi o paesi come la Svezia, anche la Germania, contrariamente a ciò che l'aveva contraddistinta, ha inviato armi agli ucraini. E quindi gli ucraini hanno posto una dura resistenza, infliggendo pesanti perdite ai russi nei primi giorni, e che hanno subito cambiato la loro strategia. Hanno smesso di cercare di occupare velocemente il paese, si sono fermati e hanno iniziato a utilizzare più su vasta scala l'artiglieria o l'aviazione, e questo ha portato a terribili distruzioni tra le infrastrutture. Infatti l'ONU parla di già più di 1 milione di profughi dall'Ucraina, che comunque è un paese di più di 40 milioni di persone. E fondamentalmente la situazione sul campo adesso è che i russi stanno accerchiando una a una tutte le principali città dell'Ucraina, e facendo questo cercano, tramite negoziati con i bielorussi, di aprire dei corridoi umanitari, sia per motivi politici sia per motivi militari. Quanto questi corridoi funzionino o meno, fino al momento non stanno funzionando. Due città famose che in questo momento stanno avendo applicati dei corridoi umanitari sono Mariupol e Kiev, appunto la capitale. Per il resto, appunto, i russi hanno circondato tutte le principali città, e la maggior parte degli osservatori concordano nel fatto che se questo conflitto andrà avanti almeno ancora un mese. se non di più. Potrebbe durare anni, ha detto il presidente francese Macron, incontrando Putin. Sì, quando ci eravamo sentiti per cercare di organizzare questa intervista, avevamo avuto anche un paio di scambi riguardo al fatto che aveva molto irritato, diciamo, dell'espansione a est della NATO. Non lo so se ci vuoi dare anche un paio di riferimenti storici cosa qui, perché risale anche a prima del 2014. Appunto, giusto per ricordare, ecco, dopo la caduta del muro di Berlino, sostanzialmente il blocco che apparteneva o era guidato dall'Unione Sovietica venne giù con l'Unione Sovietica con sé. Ecco, da quell'anno in poi la NATO ha avuto una sostanziale espansione verso est. Il primo paese è stata la Germania, ma appunto intorno tra i primi del 2000 e il 2008 la maggior parte dei paesi dell'Europa centrale e orientale sono appunto entrati nella NATO, paesi come la Romania, l'Ungheria, la Polonia o anche i paesi baltici di Lituania, Estonia e Lettonia, tutti dei paesi che appunto prima facevano parte dell'area di influenza della Russia o prima dell'Unione Sovietica. E appunto lo stesso Putin, fin da quando nella sua carriera politica, ha sempre fatto molta pressione, ha sempre ricordato il fatto che la Russia stava venendo un po' umiliata nell'essere spinta sempre verso più ad est e nella frontiera che veniva sempre portata più avanti, ed è stato appunto sempre un punto focale della sua politica. Ed è questo quello che lui cerca di far passare sostanzialmente quando si rivolge alle sue televisioni nazionali. Parla sempre di come gli è stata forzata la mano, certo, non proprio letteralmente, ma quantomeno politicamente. E i paesi occidentali, soprattutto gli Stati Uniti, si può dire che di contro, sebbene certi paesi europei come la Francia e la Germania abbiano proposto delle possibilità, come ad esempio la trasformazione del paese in un paese molto neutrale, come è successo a paesi come la Finlandia o l'Austria, ecco, forse i partner occidentali come gli Stati Uniti non sono sembrati così disposti a rinunciare per sempre all'idea di un'Ucraina nella NATO. E di conseguenza, dopo qualche mese di grosse pressioni militari alla fine del 2021, appunto, i russi dicono di essere stati costretti ad attaccare. Ok, allora della situazione militare, insomma, ne abbiamo un po' parlato, ovvero che la Russia sta provando ad accerchiare tutte le principali città ucraine, e nel frattempo iniziano ad arrivare anche un po' di armi, carri armati da parte degli alleati, tra virgolette, europei in ottica antirussia. Ti volevo chiedere, oltre, se mi vuoi dire due robe su questo, anche quali sono diciamo le ripercussioni economiche e se ci sono anche motivazioni economiche. Certo, allora, appunto dal punto di vista economico, ecco, la Russia non ha una grande economia, in dollari è appena più piccola dell'Italia, ecco, a livello di economia, però appunto non è cosa nuova il rapporto che ha con l'energia, soprattutto paesi molto dipendenti, senza petrolio o gas come l'Italia o la Germania, basano il loro bisogno energetico sulla Russia, e di conseguenza la Russia ha sempre usato questo fatto come una sorta di potere anche politico sopra i suoi partner occidentali. Ecco, si può dire che la risposta dell'Occidente da quel punto di vista è stata senza precedenti. Le sanzioni che sono mosse, ecco, forse effettivamente non faranno smettere di andare avanti le truppe russe sul primo momento, ma di sicuro l'economia russa non ne uscirà rafforzata nel breve termine, ne uscirà decisamente danneggiata nel lungo termine. Appunto, la situazione militare, c'è una stagione della cosiddetta, adesso sbaglierò la pronuncia, rasputizia, cioè una stagione del fango nell'Europa orientale, e avviene all'incirca in due periodi dell'anno, uno dei quali è verso gli inizi di aprile. Quindi probabilmente se i russi vogliono vincere questa guerra vorranno cercare di farlo prima di aprile per evitare l'arrivo del fango, che dà sempre un vantaggio a chi si difende. Ma appunto i russi hanno cercato inizialmente, quantomeno, di combattere questa guerra probabilmente cercando di proteggere i loro obiettivi politici. Appunto, ci sono minoranze linguistiche molto grandi di russi in Ucraina, quindi aveva evitato bombardamenti su larga scala. Dati gli insuccessi dei primi giorni, hanno cambiato decisamente strategia, ritornando a una più tradizionale che comporta un vasto utilizzo dell'aviazione o dell'artiglieria, e quindi appunto grandi perdite tra i civili. Ma appunto, come tu hai giusto detto, i paesi europei subito dopo l'attacco si sono dimostrati pronti nell'inviare in particolare armi anticarro all'esercito ucraino per continuare a combattere, e la strategia fondamentalmente resta quella di fare delle pressioni sia economiche con le sanzioni, sia militari, sostenendo militarmente l'Ucraina, per fare in modo che, appunto, di spingere la pressione a un tal punto di costringere i russi a cercare una via d'uscita diplomatica. Allora proviamo a fare una domanda da un milione di dollari o di rubli. Questo dipende. Quali sono gli scenari che potrebbero aprirsi? Sono svariati, è normale che non possiamo avere la presunzione di sapere, però secondo te, tu che stai seguendo comunque in maniera ossessiva, diciamo, dai primi giorni del conflitto, questa situazione, che idea ti sei fatto? Questo è normale che è una domanda molto soggettiva e quindi la risposta sarà soggettiva. Eccola, gli sviluppi appunto politici possono derivare molto dagli sviluppi militari. Se i russi riusciranno qualche sostanziale vittoria sul campo nelle prossime settimane, si potrebbero sedere a un tavolo dei negoziati con più potere in mano. Se dovessero invece trovarsi davanti a un totale impantanamento delle operazioni e una sconfitta, a quel punto sarebbero gli ucraini ad avere più carte in mano al tavolo delle trattative, e questo potrebbe allungare di molto il conflitto con i russi, che cercherebbero di avere un qualche tipo di vantaggio delle trattative che al momento sono in corso in Bielorussia. Quindi fondamentalmente bisogna aspettare l'evoluzione. Va bene, dai, grazie mille. Guarda, ti ringraziamo anche perché provare a fare una chiacchiera su questa cosa qui può anche risultare complicato, anche perché appunto non siamo sul posto e ci troviamo a migliaia di chilometri. Abbiamo provato, hai provato più o meno a dare una panoramica, speriamo, per gli ascoltatori e le ascoltatrici, il più imparziale possibile, aver fatto una descrizione di quello che sta avvenendo all'oggi. Già che ci siamo, siccome tu sei uno studente di scienze politiche, ricordiamo, lo ricorderemo anche dopo, no? Durante il momento finale delle iniziative, il presidio che ci sarà mercoledì 9 alle ore 16 presso la Facoltà di Scienze Politiche, fuori la guerra dalle università, fuori la NATO dell'Italia. Giusto? Ci vediamo lì? Sì. Ci vedremo lì. Perfetto, va bene, grazie mille. Allora ringraziamo il compagno e ora andiamo avanti con un po' di musica. Come detto prima, abbiamo messo un gruppo Hardcore Heritage Vegan ucraino, e ora invece mettiamo un gruppo Hardcore Heritage Vegan con una cantante, con una ragazza alla voce, e si chiamano X Death Proof X.